Sezione diciassettesima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto diciassettesimo. Qual venne a Climenè per accertarsi di ciò che aveva incontro a sé udito, quel che ancor fa li padri a figli scarsi. Tale era io, e tale era sentito, e da Beatrice e dalla santa lampa che pria per me avea mutato sito. Perché, mia donna, manda fuor la vampa del tuo disio, mi disse, sì che l'esca segnata bene nell'interna stampa. Non perché nostra conoscenza cresca per tuo parlare, ma perché ta usi a dir la seta, sì che l'uom ti mesca. O cara pianta mia, che sì t'insusi che, come veggion le terrene menti non capere in triangolo due ottusi, così vedi le cose contingenti, anzi che siano in sé, mirando il punto a cui tutti i tempi son presenti. Mentre ch'io era a Virgilio congiunto su per lo monte che l'anime cura e, discendendo nel mondo defunto, dettemi fur di mia vita futura parole gravi, avvegna ch'io mi senta ben tetragono ai colpi di ventura. Perché la voglia mia seria contenta d'intender qual fortuna mi s'appressa, che saetta previsa vien più lenta. Così diss'io a quella luce stessa che pria m'avea parlato, e come volle Beatrice fu la mia voglia confessa. Né per ambage, in che la gente folle già s'invescava pria che fosse anciso l'agnel di Dio che le peccata tolle, ma per chiare parole e con preciso latin rispose quell'amor paterno, chiuso e parvente del suo proprio riso. La contingenza, che fuor del quaderno della vostra materia non si stende, tutta è dipinta nel cospetto eterno. Necessità però quindi non prende, se non come dal viso in che si specchia nave che per corrente giù discende. Da indi, sì come viene ad orecchia dolce armonia da organo, mi viene a vista il tempo che ti s'apparecchia. Qual si partì Ippolito d'Atene per la spietata e perfida Noverca, tal di Fiorenza partir ti conviene. Questo si vuole, e questo già si cerca, e tosto verrà fatto a chi ciò pensa là dove Cristo tutto di si merca. La colpa seguirà la parte offensa in grido come suol, ma la vendetta fia testimonio al ver che la dispensa. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dell'esilio pria saetta. Tu proverai sì come sa di sale il pane altrui, e come duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale. E quel che più ti graverà le spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle, che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contra te, ma poco appresso ella, non tu, n'avrà rossa la tempia. Di sua bestialitate il suo processo farà la prova, sì che a te fia bello averti fatta parte per te stesso. Lo primo tuo rifugio, il primo ostello, sarà la cortesia del gran Lombardo, che sulla scala porta il santo uccello, che in te avrà sì benigno riguardo, che del fare e del chieder tra voi due fia primo quel che tra gli altri è più tardo. Con lui vedrai colui che impresso fu e nascendo sì da quella stella forte che notabili fien l'opere sue. Non se ne sono ancor le genti accorte per la novella età, che pur 9 anni son queste ruote intorno di lui torte.